Buonasera a tutti, benvenuti, vedo che siete numerosi e ci fa particolarmente piacere avere con noi questa sera Lionello Mancini, l'autore del libro appunto che verrà presentato, L'onere della toga. E concludiamo con questa serata la presenza anche del dottor Cuno Tarfusser, già procuratore capo del Tribunale di Bolzano, e vi ringrazio perché con questa serata noi concludiamo un ciclo dedicato all'impegno civile e abbiamo avuto con noi anche Marco Imperato a settembre e anche un anno di attività. Questa è una biblioteca che sta aspettando la realizzazione del polo bibliotecario e sta in questi anni attivandosi per così creare sempre delle nuove occasioni di incontro con gli autori per promuovere la lettura, ma anche far conoscere quella che è la biblioteca, che è un servizio fatto non per i cittadini ma proprio con i cittadini, e la dimostrazione l'abbiamo tutte le serate che organizziamo e tutte le giornate in cui lavoriamo, dove vediamo che le persone vengono, si trovano e partecipano con noi anche a numerosi progetti. Spesso sono anche nostre ispiratrici, ecco, di progetti in prima linea, e ci fa piacere. È stato un anno particolarmente intenso, lo concludiamo bene con questi nostri illustri ospiti e vi invito a tornare, finite le feste, ecco, trascorse le feste, con il 2014 per vedere anche tutte le nostre novità. Avremo come sempre iniziative ogni settimana, un corso di iPad e di tablet che sta riscuotendo un ottimo successo per imparare ad usarlo, ma soprattutto per imparare ad usare i servizi che noi mettiamo a disposizione gratuitamente. Io vi ringrazio, ringrazio tutti quanti che sono voluti, ecco, venire a trovarci. Se avete piacere, se vi può interessare, la biblioteca chiede ogni tanto di iscriversi, è un'operazione assolutamente gratuita, ma serve per poi mantenere un contatto attivo con le persone, con i cittadini. Grazie, a voi la parola. Buona serata. Grazie. Temo che aspetti a me aprire, perché come dico da alcuni giorni, lui poi mi prende il giro, li faccio da spalla, e sono contento di poterli fare da spalla a Lionello Mancini, con cui questa è la terza presentazione del libro che faccio insieme a lui, o lo accompagno, li faccio da spalla. Sono stato a casa sua a Fano in ottobre, ieri poi siamo stati ieri sera a Padova, che è un po' casa mia perché io ho vissuto 10 anni della mia vita a Padova, e ovviamente quella di oggi per me personalmente è ovviamente la più significativa ma anche la più difficile. Significativa perché io ho trascorso 24 anni della mia vita, della mia carriera professionale in questa città, una parte di questa in qualche modo è scritta in questo libro di Lionello, e quindi anche perché qui oggi sono presenti tutta una serie di persone che se sbaglio qualcosa si alzano e dicono no, guarda che non è andata così, è andata così. Perché io ci sono una serie di amici che ho precettato, evidentemente, perché siete in tanti, ma tutti quelli che conosco sono venuti qua perché gli ho ordinato di venire. Tra quelli che ovviamente mi sono più cari, c'è il procuratore generale, c'è il dottor Rispoli, il mio successore, ci sono tutta una serie di miei di persone che hanno accompagnato. Che hanno accompagnato la mia vita professionale, vedo Maresciallo Andreoli, poi quelli che mi hanno salvato la vita, vedo qualche medico qua in mezzo che ogni tanto ha cercato di rimettermi in sesto, vedo Caramaschi che se oggi siamo qua un po' è anche merito suo, perché una volta gli ho telefonato. City manager. City manager, sì, ex city manager. Io non lo conosco. Si alzi il dottor Greco, è lui. Ma soprattutto parlare. C'è mia moglie che normalmente cerca, rimane a casa, mi lascia andare avanti da solo, mi dice tu vai avanti, a me, guarda, io non voglio apparire, ma se io ho raggiunto qualche traguardo più o meno importante, credo che sia anche e soprattutto merito suo, perché mi ha tolto certamente tutta una serie di problemi che ovviamente ognuno di noi ha, me li ha tolti, me li ha presi lei, e quindi io ho potuto dedicarmi molto più a, alle cose che poi mi hanno portato oggi qua a lui a scrivere questo libro. Ecco, quindi un ringraziamento a mia moglie che è qua. Io non parlerò del libro, perché non posso parlare del libro, perché non, io potrei solo dirvi che ha ragione Lionello, che ha scritto tutte queste cose, ha scritto perfettamente, perché evidentemente un libro che abbastanza, diciamo, elogiativo di quello che ho fatto, quindi per me è difficile parlarne, quindi volevo un attimo, prima di dargli la parola, parlare di Lionello, Lionello Mancini, con cui ormai siamo, cioè, siamo degli amici da alcuni anni. Lui nel 2006 ci siamo conosciuti perché lui è cronista del Sole 24 Ore. Uno dice: cosa fa uno del Sole 24 Ore con la cronaca giudiziaria? Poi forse ve lo spiegherà lui, ma comunque cronista del Sole 24 Ore, che si occupa anche di, evidentemente di efficienza, no? Di efficienza del dei sistemi e poi del sistema giustizia. Poi lui ha avuto un precedente, cioè prima di andare al Sole 24 Ore, sembra una contraddizione in termini, ma era lotta continua. Quando è andato al Sole 24 Ore, mi spiegherà lui come è riuscito a fare questo salto gigantesco, ma certamente Lionello Mancini dal 2006 che mi segue o segue quello che facciamo io con i miei colleghi, collaboratori, alcuni dei quali sono qui, abbiamo fatto la Procura di Bolzano e siamo diventati ovviamente amici, ci troviamo in giro in ogni dove, siamo come Chip e Chop che ogni tanto veniamo invitati sempre in convegni in giro per l'Italia, poi ci incontriamo, la prossima volta ci vediamo là. È venuto anche a trovarmi in Olanda, proprio anche per parlare di quello che poi sarebbe stato parte del libro, e quindi a me piace parlare di Lionello, appunto dell'amico, non di colui che ha scritto su di me, anche su di me. Devo dire che il libro di per sé io l'ho letto, evidentemente ho iniziato dal capitolo 5, quello che mi riguardava, mi era legato in ultimo, ma è lo stesso, è una cosa che gli posso anche perdonare, ma l'ho letto, e quello che è, secondo me è, di questo libro è rilevante, comunque è bello, visto anche dalla parte del magistrato, che lui parla di cinque magistrati assolutamente normali, quindi non di magistrati particolarmente, virgolette, famosi per le loro gesta, ma ne parla in maniera estremamente naturale, umano, no? Cioè, con tutti i magistrati che hanno gestito delle indagini, o comunque hanno fatto il loro lavoro, e ne parla in termini normali, no? Non di eroi, ma di persone normali che hanno le loro debolezze, le loro forze, le loro passioni, le loro paure, e quindi è proprio una cosa un po' diversa rispetto a quello che si legge sui giornali, dove una volta, alcuni anni fa, i magistrati erano tutti eroi, adesso siamo tutti comunisti, che mi pare un po' una riduzione un po' forte di un mestiere che è un mestiere straordinariamente bello, e che la maggior parte di noi, credo che su questo possiamo essere tutti d'accordo, facciamo con estrema passione. L'onere della toga, ma io dico anche l'onore di vestire la toga. Io, detto questo, e poi magari ci sarà il modo di interagire anche con voi, vorrei passare la parola a Lionello, che poi appunto io vi faccio la spalla, adesso arriva il protagonista che vi dirà quello che vuole lui, insomma, ovviamente. Buonasera. Beh, sicuramente è una cosa abbastanza È una presentazione abbastanza strana questa, perché non mi è mai accaduto di presentare il libro in una situazione in cui l'oggetto del capitolo quinto, appunto, Condottar, fosse così conosciuto, così noto, insomma. Allora, io vi parlerei molto brevemente del... Sono contento che siate così tanti, alcuni anche scomodi, quindi cercheremo anche di essere, se vogliamo, concisi. Vi parlerò un po' di come è nato questo libro, che cosa c'è dentro, e però poi vi parlerò anch'io di come sono arrivato a Bolzano, perché io non ci sono arrivato passando da Catanzaro, e adesso vi spiegherò, insomma, come è accaduta questa cosa. Allora, cominciamo subito da questa questione di lotta continua, perché è la cosa che incuriosisce un sacco di gente, anche ieri sera a Padova è stata... credo che sia un discorso abbastanza semplice e legato a un tema oggi credo molto di attualità, che è la professionalità. Cioè, io ho cominciato alla fine degli anni 70 a fare questo lavoro in una maniera abbastanza casuale, a Milano, al Palazzo di Giustizia, seguendo appunto per lotta continua, esisteva solo il quotidiano, l'organizzazione era già sciolta da 3 o 4 anni almeno, e ho cominciato a seguire dei processi che erano quelli che interessavano per l'appunto, diciamo, l'area politica di sinistra, quindi erano gli anni in cui avevano cominciato ad arrestare i primi terroristi, c'erano i primi pentiti di terrorismo politico, di terrorismo rosso. Seguivo questi processi, scrivevo i miei articoli, se non che nell'82 il giornale ha chiuso, e peraltro non pagavano neanche sempre, neanche bene, devo dire. Io però avevo iniziato a fare proprio il mio lavoro di giornalista professionista, avevo fatto l'esame di Stato e tutto, quindi non era una cosa di militanza, diciamo. Beh, nell'82 le circostanze si sono aggiustate a mio favore, poiché dopo in quell'anno lì, esattamente in quell'anno lì, sono successi tanti fatti che i più grandi di noi ricordano sicuramente, dei fatti di politica giudiziaria però anche economica e finanziaria, come il fallimento del Banco Ambrosiano, l'uccisione di Roberto Calvi, l'arresto di Angelo Rizzoli, la P2 che si era appropriata di un pezzo del Corriere della Sera, l'arresto di Tassandin, non so se questo nome ve lo ricordate, insomma tutti fatti che si incentrati a Milano peraltro, dove il Sole 24 Ore non solo non aveva nessuno in grado di seguirli, perché fare cronaca giudiziaria è una cosa molto precisa, ma per una finestra di 2 o 3 mesi il direttore dell'ex quotidiano politico in cui lavoravo, che si chiama tuttora Enrico De Aglio, per un paio di mesi era fortunosamente il fratello del direttore del Sole 24 Ore, che era Mario De Aglio, che è un notissimo economista, assolutamente prestato in maniera molto casuale, non so neanche perché, a fare il giornale, cioè non sapeva fare il direttore, lui sapeva fare l'economista, poi il giornale, diciamo, però era il direttore. Allora ho chiesto semplicemente se sulla base delle mie qualità professionali gli poteva interessare che io seguissi per loro queste vicende. Mario De Aglio, che per l'appunto non si è fatto, avendo già un fratello piuttosto, come dire, etichettato, non è che si è fatto un grande scandalo che io mi proponessi, così mi ha lasciato che io collaborassi, e dopo un paio d'anni il Sole mi ha assunto e ho fatto una carriera dentro il Sole in cui lavoro dal 1984 ormai. Quindi allora, diciamo, questa vicenda ha avuto un altro risvolto. Non appena sono stato assunto al Sole, nel frattempo era cambiato il direttore, e il direttore era un signore, un democristiano di sinistra, che non mi poteva vedere praticamente, proprio perché invece ero un pochettino etichettato, ma avevo anche i capelli molto lunghi, insomma, erano i primi anni 80, insomma, no? e mi ha tolto subito dal Palazzo di Giustizia, cioè mi ha assunto perché comunque ero bravo, ho scritto per una bravo, scusate, mi è scappato, insomma, sapevo fare questa cosa. E mi ha messo a fare il bravino, potevi dire. Non mi è venuto, è la frequentazione con te che mi rovina. ho fatto un master di modestia, ma mi hanno bocciato, quindi non capisco come mai. E mi sono messo a fare una carriera completamente interna al giornale, alla redazione, e quindi altri colleghi hanno, diciamo così, continuato il lavoro che avevo cominciato io. In quegli anni però, e quindi sto parlando dall'85 fino al 2006, ho fatto una carriera anche abbastanza importantina, diciamo, dentro il sole. Vedi che impari. Ragazzi. Fino a fare il vice direttore di Radio 24, che è la radio del gruppo del Sole, e dopodiché il direttore Ferruccio De Bortoli mi ha chiesto di, come dire, riprendere, cioè ho concluso la carriera di proprio scrittore, diciamo, come scrittura, che è una fortuna, che guardate che i giornalisti, cioè non è che capiti sempre, io sono stato fortunato, diciamo, potendomi occupare di nuovo di cronaca giudiziaria. È stato per me un, come dire, un grande ritorno nel passato. Peraltro, come molti magistrati sanno, in questi anni non è che siano sorte tantissime figure, diciamo, di spicco nella magistratura per una serie di motivi. Perciò i contatti, i rapporti e anche le amicizie che risalivano ai primi anni 80, quando ancora facevo cronaca giudiziaria su Lotta Continua e poi sul Sole, sono rimasti non solo dei rapporti di amicizia, alcuni anche stretta amicizia, ma le figure di spicco di quel periodo sono le stesse di oggi. Mi sto riferendo, poi persone che ha fatto percorsi diversi, però mi sto riferendo, allora in procura c'erano Armando Spadaro, c'era Ilda Boccassini, c'era Gerardo Colombo, Giuliano Turone, cioè Filippo Grisolia, insomma tutte persone che, con cui ci si frequentava. Ben sa chi lavora in un palazzo di giustizia che quella diventa una casa, in sostanza si sta lì dalla mattina alla sera, insomma, no? Ecco, negli ultimi anni questi contatti mi hanno, devo dire, fatto venire alcune idee che poi sono sfociate anche in questo libro, e mi hanno anche aperto diverse porte, perché è evidente che anche andare in una procura, cioè a Gela, ma preceduto da una telefonata di Ilda Boccassini, insomma, facilita, ecco, diciamo, perché sennò magari uno viene guardato anche con un certo sospetto, visto che i giornalisti spesso fanno anche dei casini, insomma, no? Allora, tutto questo mi ha portato nel 2006, spero di non essere troppo lungo, tu sembravi... nel 2006 mi ha portato, dopo aver letto una notizia, un trafiletto di 6 righe su Il Giornale, mi ricordo ancora la testata, diretta era ancora da Feltri, c'era la notizia di un processo che era saltato, diciamo, a Rossano Calabro, perché era un processo contro i mafiosi, era un processo che quindi aveva, diciamo, le indagini erano a Catanzaro, ma non c'erano quel giorno, che doveva esserci udienza, i soldi per mettere la benzina nell'auto che doveva portare i fascicoli a Rossano Calabro. Questa cosa mi ha incuriosito, perché nel riprendere questi, e sono andato, il lavoro del giornalista è meraviglioso per questo, uno si fa venire curiosità e se le toglie pure, che è una cosa fantastica, specie se uno è curioso. E sono andato a Catanzaro, ho parlato con queste persone che mi hanno confermato che non avevano i soldi della benzina, e ho parlato con il pubblico ministero che doveva sostenere quel processo, il quale, anche qui casi della vita, aveva un fratello gemello che faceva il PM, ma in un'altra procura, esattamente a Pisa. E Domignani. E quando abbiamo parlato di queste robe, questo mi diceva: qui è un macello, non ci abbiamo più niente. Ma anche adesso sono tornato a salutarlo a una presentazione del libro Catanzaro. Tutti i bagni della procura di Catanzaro sono senza acqua. Cioè, loro per fortuna hanno i bagni, diciamo, privati che usano loro, ma io sono andato in uno qualunque, tutto bagni senza acqua, ecco, per dire, insomma, il Palazzo di Giustizia di Catanzaro. E mi dice, no, sì, sì, si dovrebbero fare delle cose, ci sono soldi, eccetera, però vada a vedere cosa fanno a Pisa, era il 2006, perché a Pisa stanno digitalizzando gli atti giudiziari, perché per sveltire le cose, eccetera. Io dopo un paio di settimane sono andato a Pisa, ho parlato con questo giovane PM che era anche il referente informatico della procura, un appassionato, gli piaceva, eccetera eccetera, ci siamo salutati, mi ha detto, ma non sai cosa fanno a Bolzano. Ma cosa fanno a Bolzano? Non so cosa fanno a Bolzano. Guarda, Bolzano sta facendo delle cose pazzesche, cioè, era appunto il 2006, sono venuto a Bolzano, era freschino, ma insomma sono venuto sullo stesso e ho conosciuto Cuno, che in questa stava lottando già contro quelli che volevano fargli fare fotocopie. Lui diceva, no, io le fotocopie non ve le faccio perché sono dei costi inutili. Aveva già fatto il programmino, le slide con tutte le cose dei conti, eccetera, una cosa che non sapeva nessuno, credo che l'avesse scritto forse una volta La Stampa. Beh, io ho fatto una pagina sul Sole 24 Ore, cui ne sono seguite altre, perché ho subito capito che qui, insomma, stavate facendo, se posso usare questo termine, anche perché l'idea di Cuno era chiara, insomma, le robe che si fanno per migliorare un ufficio pubblico si fanno, o si fanno insieme o non funziona niente, insomma. Quindi le cose che stavate facendo erano originali, erano già a un punto di esecuzione avanzatissima, nel senso che un conto è come i poverini di Pisa che ancora stanno digitalizzando le carte, che mi dicono, appunto, abbiamo in progetto questa cosa, e qui io ho visto le slide, ragazzi, abbiamo fatto sta roba qua, io ho fatto i conti, se faccio le fotocopie per i controlli di non so che accidente, eccetera, ragioneria generale dello Stato, spendo quasi 11.000 euro, non se ne parla neanche, se vogliono vengono qui a vederli, eccetera, cioè una cosa. E infatti, insomma, è uscito questa, ecco, tutto questo è diventato un capitolo del mio libro. Perché? Perché gli altri quattro pubblici ministeri di cui parlo sono delle persone alle prese con delle indagini di diverso tipo. L'ultimo capitolo, ed è l'ultimo per questo motivo, e smettila di dire che è l'ultimo capitolo, che se anche non è il primo non succede niente, cioè poi uno arriva a leggerlo prima o poi, no? E è l'ultimo capitolo perché siamo davanti a un pubblico ministero alle prese, almeno nella mia lettura di questi fatti, non solo con un esperimento eccezionale, ma con una categoria che questa cosa non l'ha, per certi versi non l'ha capita, e se l'ha capita non l'ha apprezzata, perché non, dopo aver fatto quello che avete fatto qui a Bolzano, dopo l'impegno che ha messo Cuno, che io racconto appunto in questo capitolo, perché questa possibilità, che significa maggiore efficienza, miglior servizio al cittadino, meno soldi pubblici spesi, si diffondesse in tutta Italia, beh, insomma, diciamo, gli ostacoli sono venuti sia dalla politica, ma su questo, vabbè, non ci dobbiamo stupire, ma soprattutto dalla categoria, cioè dai magistrati, che, se posso dire, e questa è una notazione che mi ha fatto un lettore, io non l'avevo notato, perché poi anche il libro, uno non è che tutto, non è una roba tutta volontaria, nel libro ciascuno ci vede delle cose che poi io dico, ah sì, è vero, però non ci avevo pensato prima. Le prime quattro storie sono delle storie di persone che sono alle prese con delle indagini più o meno complicate, difficili, che provocano più o meno problemi, sofferenze, eccetera, e quindi uno riesce ad apprezzare l'impegno di queste persone, la fatica di queste persone, la professionalità di queste persone. L'ultimo capitolo, dove si parla un po' di attraverso il lavoro di Cuno, di una categoria, si capisce molto bene come questa categoria sia assolutamente una casta, come ce ne sono altre. I giornalisti sono una casta, i politici pare siano una casta, non so se come, insomma, come si pensi da queste parti, ma quindi sono una delle caste, e la casta si caratterizza perché meno cambia e più sono contenti. Tutto quello che è possibile ripetere in maniera un po' automatica va fatto, ogni cambiamento sembra che uno voglia disfare il mondo, invece sono delle cose che andrebbero a favore della, proprio della gente da cui queste persone vengono pagati, quindi è proprio una specie, diciamo, di bilanciamento di quello che non vuole essere un libro agiografico, un santino dei magistrati, anche se qualche avvocato si è arrabbiato e mi ha detto questo, ma vuole essere proprio, come dire, una cosa di dire: guardate che comunque anche loro hanno molta strada ancora da fare per arrivare a un, diciamo, a un, a rendere un, cioè a lavorare in maniera seria e più efficace per noi, per i cittadini. Vi rubo altri 5 minuti solo per dirvi invece di cosa si parla negli altri 4 capitoli, perché ci sono 5 capitoli, non è che posso parlare solo di un capitolo. Non è che... Allora, potrei dirle così: negli altri 4 capitoli possiamo suddividerli anche per brevità in due in parti. Quattro. No, in, qua, in, due, in due, per semplificare. Nei primi due capitoli, in uno parlo dell'indagine che una PM che si chiama Lucia Musti, che io non conoscevo, ha condotto nel 2006 per quando venne rapito a Parma un bambino, un neonato di un anno e mezzo, Tommaso D'Onofrio, Tommy D'Onofrio mi pare si chiamasse, sì, che venne ucciso subito peraltro, per cui era una cosa molto anomala, e lì insomma, diciamo, c'è questo problema di una donna pubblico ministero, che è anche una mamma, che si trova davanti una cosa che, come dire, che fa soffrire chiunque. Beh, figuriamoci appunto chi deve cercare di risolvere o di trovare un bandolo in questa situazione, e che poi alla fine viene mandata dal suo capo a dire alla mamma di questo bambino che il suo bambino era morto. Allora, questi sono degli, sicuramente è un'indagine per certi versi straordinaria, ma non così straordinaria, perché per esempio il secondo capitolo, per l'appunto, è quello di un, è dedicato a un PM che per 10 anni si è dedicato a Milano ai soggetti deboli, che sono i bambini abusati, le donne maltrattate, zingari, mendicanti finti, eccetera eccetera, che anche lui, diciamo, è alle prese con una parte anche di sé emotiva, cioè non facile, perché sono delle cose che fanno veramente nauseare le persone che debbono trattarle, cioè non è come guardare un DVD che se uno non gli piace lo spegne, uno deve andare avanti e arrivare e cercare anche attraverso il suo lavoro di far condannare la persona, il padre che abusa delle figlie, perché se no il suo lavoro è sprecato, è inutile, e anche la sua, il suo impegno e la sua sofferenza sono inutili. Quindi questi due capitoli si caratterizzano perché per certi versi raccontano che cosa passa, diciamo così, nella pancia di una persona che fa questo lavoro e che si trova alle prese con indagini di questo tipo. Mi spiegava appunto Marco Ghezzi che appunto, cioè, non è facile visionare per delle ore intere dei filmati, peraltro leggevo proprio oggi sul giornale esattamente una notizia di questo tipo, cioè di un padre nel Bresciano che è stato arrestato perché abusava di una delle figlie, e l'hanno arrestato dopo 3 o 4 giorni che una microcamera piazzata visionava queste scene. Beh, insomma, che sono come quelle degli infermieri che picchiano gli anziani nei manicomi, i malati di mente, eccetera, cioè cose pesantissime. Gli altri due capitoli invece riguardano uno il fenomeno dell'evasione fiscale, in particolare da San Marino, e l'altro la presenza e il radicamento dell'andrangheta in Lombardia. Beh, questo, diciamo, da un punto di vista dello stomaco fa meno schifo degli altri, però fa fieramente incavolare chi si rende conto di essere chiamato a, non dico risolvere, ma comunque a certificare e a mettere in galera delle persone per dei fenomeni che sono in atto da decenni, che nessun sistema di controllo, di verifica, di trasparenza ha mai fermato, e affidare questo fenomeno a una procura è veramente, come dire, è l'ultima spiaggia. Lo abbiamo visto con il caso Ilva, perché sono dei casi simili, no? Quando una politica industriale di un paese per 20-30 anni viene abbandonata a se stessa, e poi l'unico rimedio è un PM che deve sequestrare, perché non è che può fare un tavolo con i sindacati, gli strumenti sono quelli, facendo anche qualche danno senza volerlo fare, ma gli strumenti sono quelli. Il codice penale è una specie di tenagliona grezzissima, afferrare un problema, come dire, delicato, sfaccettato, eccetera, è una cosa impossibile, come sanno benissimo quelli che indagano. Bene, questo tipo, non parliamo dell'evasione fiscale, nel 2008 sappiamo come siamo messi, diciamo, nel nostro paese, nel 2008 a San Marino c'erano 13 miliardi, di cui perlomeno il 90-95% venivano dall'Italia. Di questi la gran parte erano frutto di evasione fiscale, il resto erano la mafia che riciclava i soldi, cioè proprio, ecco. Allora, un pubblico ministero che nel 2009 si ritrova ad affrontare questo fenomeno, e in più si ritrova contro tutto il sistema che questo fenomeno ha permesso o ha creato, dalle banche agli avvocati o i costituzionalisti che mettono in piedi delle regole tali per cui questi fenomeni diventano inafferrabili, li nascondono, eccetera, sono delle cose che fanno, diciamo così, arrabbiare dal punto di vista proprio dell'etica civile una persona che ancora prima di essere PM è un magistrato. Beh, lo stesso per... Prima di essere PM è un uomo. Che prima? Tu hai detto prima di essere PM è magistrato. Prima di essere PM è un uomo. Io la ringrazio per questa correzione. No, a volte è anche una donna, perché in questo uomo in senso lato, ho sbagliato la frase. No, però... ti volevo dare dimostrazione che sto attento. Alessandra Dolci, e concludo, che scopre, dopo aver messo in galera 300 persone e by the way dopo qualche mese anche un paio di magistrati calabresi, e scopre di vivere in una regione, lei è lombarda, Brianzola, che ha sempre vissuto come una regione in cui, diciamo, si produce, si sta bene, ci si parla, eccetera eccetera, una regione infestata dall'andrangheta, ma perché per almeno un ventennio, se non di più, degli imprenditori o dei professionisti eccetera hanno fatto affari con queste persone e si sono arricchiti grazie a queste persone fino a non controllarli più, perché adesso a Milano e nell'interland milanese certi lavori basici dell'edilizia come il movimento terra è nelle mani di queste persone, e o vengono arrestati se si trovano le prove che sono comunque una banda armata, che non è così una banda, come si dice, associazione per delinquere eccetera, oppure non succede niente. E cosa succede nel processo che Alessandra ha istruito arrestando tra Milano e Reggio Calabria 300 persone eccetera eccetera? Che tutti i professionisti e gli imprenditori che si erano congratulati nel segreto delle indagini istruttorie ancora coperte con i magistrati che finalmente gli avevano tolto questo peso eccetera, in aula non testimoniano, cioè, o meglio, devono farlo, vanno lì ma si arrampicano sugli specchi, minimizzano, svicolano. Il presidente, che è una persona assolutamente tranquilla eccetera, credo che ne abbia, come dire, poi fatti, abbia rinviato alla procura gli atti per farsi testimonianza per 5 o 6 di questi professionisti, cioè persone che ha studiato, non contadini spaventati calabresi dove il territorio è in mano, ma degli imprenditori, dei commercianti lombardi. E tutto questo che accadeva tra il 2009 e il 2010 ancora adesso interroga questo stesso pubblico ministero e anche noi, anche me, insomma, perché per esempio una delle persone che cito in questo capitolo, un architetto che ha diretto lavori per un'ottantina di milioni a Buccinasco, di cui una buona fetta se la sono presa appunto i calabresi con delle finte aziendine, con dei camion scassati eccetera eccetera, e questa persona è tuttora vicepresidente dell'Ordine degli Architetti di Milano. Cioè, non succede nulla. Uno si rivela, non c'è in Italia una cosa che faccia vergognare le persone. Questo, anche qui l'esempio dei politici è preclaro da questo punto di vista, ma c'era da sperare che chi avesse così studiato, perché per fare il professionista, insomma, per esempio, bisogna proprio studiare degli anni, iscriversi a un albo, albi che hanno dei loro organismi di vigilanza, di controllo disciplinari, eccetera, e non succede niente. Ecco, questi sono, diciamo, questo è il mio libro in buona sostanza, e credo che da un punto di vista, ecco, ci tengo a dire che appunto non è un saggio sulla giustizia. Mi piacerebbe molto che anche la moglie di Cuno lo leggesse, lo dico qui pubblicamente, e chissà se ottengo un qualche effetto. Ok, forse sono riuscito, saltando il quinto capitolo, perché questo ce l'hai in casa, non è che c'è bisogno. E niente, quindi questo è il mio libro, chi avrà voglia di leggerlo dirà se gli è piaciuto o meno. Niente, è il momento in cui ovviamente se qualcuno vuole fare a lui delle domande le faccia. No, puoi anche fare una considerazione se vuoi. No, io posso fare la considerazione che mia moglie effettivamente non ha letto. Io vengo a casa e dico guarda questo libro, beh, parla di me, sì. Ma, cioè, io questo posso, questa è la mia considerazione. Vabbè. Adesso lo leggerò. Sì, sì, è registrata, sono un registratore. Sì. È in commercio, sì. Dove si trova? Sì, nelle librerie. Qua dietro. Qua dietro, sì. Sì, sì, è uscito a fine giugno e l'hanno ristampato adesso a ottobre, perché comunque settembre. Insomma. Cioè, la ristampa? La ristampa? No, settembre 2013. Ah, sì? Stampa nel settembre. Ah, ci picchia, ma io sono arrivato dell'ottobre. In giugno edito in vendita già in settembre. Io posso ancora dire una cosa, no, su questo, cioè è stata ristampata, nonostante che io avessi trovato a pagina 90 in alto un errore, questo errore è rimasto. E cioè, siccome in questa serie c'è anche mio fratello, che inorridirà anche lui, perché l'errore a pagina 90 è l'aeroporto di Amsterdam, Schiphol, e lui lo scrive come se fosse la polizia dell'aria, Schiphol. Nonostante questo non è riuscito, è uno dei tratti più di rilievo del libro, ha fatto bene a, sì, a sottolinearlo, insomma. Mi raccomando, andate a vedere, ma se lo leggete pagina 90 in alto. Ma errori di grammatica non ce ne sono, non so, chiedo perché no, lì. Dottore, sì. Buonasera, sono un medico, quindi non sono dell'ambiente. Com'è la vita di un giornalista che va a smuovere situazioni delicate? Queste cose. Tante volte leggiamo i report, vediamo i servizi TV e leggiamo notizie in internet, però la vita di chi fa un lavoro, fra virgolette, normale e arriva a contatto con situazioni spinose, sgradevoli, anche rischiose, ha avuto dei risvolti? Sì, allora, diciamo così. Se ci riferiamo in particolare a questa tipologia, diciamo, di chiaramente come per i magistrati, senza fare paragoni impossibili, diciamo, no? Però come per i magistrati, ci sono delle inchieste che sono più, diciamo, delicate da afferrare, anche da descrivere, come da fare. Io da questo punto di vista lo scrivo nell'introduzione, ho una regola che molti miei colleghi non condividono, che però per me è basilare, e cioè che pur essendo sia la giustizia come la salute, l'informazione eccetera dei diritti, alcuni dei quali sanciti dalla Costituzione e garantiti dalla Costituzione, per quello che mi riguarda in questo particolare tipo di lavoro, un'inchiesta, e cioè il tentativo di assicurare la giustizia dei delinquenti, viene prima del fatto che io possa fare uno scoop, possa raccontare, tirare fuori una carta che è ancora segreta, eccetera. Questa regola, dicevo, non è condivisa, tante volte avete visto cosa succede sui giornali, e purtroppo è una regola che richiede diciamo, io credo anche una certa maturità, cioè è più facile che un giovane che inizia questo lavoro si faccia prendere dalla fregola, ed è più facile che chi ha interesse gli allunghi una carta, perché è quasi sicuro che quella cosa lì esce. Già se l'allunga a me, vorrei sapere un attimo di più, perché il lavoro di un giornalista non è solo, come dire, propalare le notizie, cosa che peraltro ora, io poi sto parlando da anziano di giornali, ma ormai il problema qui è internet, dove sembra che la velocità sia la cosa principale, anche perché dopo tre minuti, se uno dice culo è stato arrestato, dopo tre minuti dice no, non è vero, e teoricamente è a posto, ma intanto culo passa a 5 minuti, diciamo. Ecco, sui giornali il vero lavoro del giornalista, che vale tanto più per le cose giudiziarie, perché se è vero che un PM può rovinare una persona sbagliando, anche un giornalista può rovinare una persona in maniera magari meno, non so, meno, non è che lo metti in galera, però se per quella persona la reputazione è una cosa importante, perché è un professionista, è un medico, eccetera, e si dice una cosa sbagliata, gli fai un bel danno, insomma. Allora il lavoro del giornalista, ripeto, non è propalare le notizie, e uso propalare proprio per dire buttare lì, è quello di verificarle, perché una notizia è un fatto se è stato verificato come tale. Nei paesi civili, diciamo così, o diciamo insomma nei paesi in cui la tradizione dell'informazione ha una storia diversa dalla nostra, ci sono i fact checkers, cioè se io faccio un'intervista, questo lo raccontava proprio Spataro, che è andato a intervistare un giornalista di un giornale americano, ha fatto un'intervista descrivendo anche il posto in cui era, come si fa nelle interviste, ha portato l'intervista al suo giornale in America. Dopo qualche settimana l'hanno chiamato a Spataro dall'America dicendogli: è vero che è venuto questo, gli ha fatto queste domande, le ha risposto questo, è vero che nella sua stanza c'è un quadretto con una squadra di calcio, è vero che, cioè, dopodiché, allora il tentativo anche nei giornali di fare un lavoro di questo genere in genere viene diciamo vanificato dalla fretta dei colleghi e anche un po' dai direttori, perché comunque il direttore che dice, a cui dici ce l'abbiamo solo noi, quello lì va, ha capito, proprio una cosa, ecco. Allora da questo punto di vista ci sono diciamo delle categorie di tipo deontologico, di tipo etico anche, per cui certe cose, questo ci permette, io lo dico, non credo di dire una cosa, credo che chiunque faccia il magistrato lo sappia, mi è capitato di leggere degli atti ancora prima che diventassero pubblici. Perché ho potuto farlo? Proprio perché chi me lo ha fatto fare lo ha fatto con un motivo preciso che ora vi dico, e contando, come dire, su una fiducia totale della mia persona. Quando esce la mattina alle gli arresti retate, avvengono in genere di notte, la notizia si diffonde alle 8 di mattina, dopodiché gli atti vengono depositati per i difensori eccetera, e arrivano delle papelle di 800 pagine su cui il giornalista teoricamente dovrebbe scrivere nel giro di 3 ore. Allora, se le cose sono fatte bene, qui c'è un dibattito su come dovrebbero comunicare gli uffici giudiziari, che non è ancora risolto, se le cose sono fatte bene è una cosa che conviene a tutti. Se io ho il tempo materiale, io non posso dire al direttore: no, scusa, sono 800 pagine, te lo scrivo fra una settimana, perché quello mi manda, no, a fare un altro lavoro. Allora, se io ho il tempo, questa cosa non solo di leggerla, ma anche di capirla, possibilmente di farmela anche spiegare nei punti in cui non è chiara, io rendo un servizio di qualità assolutamente migliore di come non sarebbe, di come non succede quando sui giornali le leggete. E questo meccanismo è un meccanismo che porta a indicare ai cronisti, diciamo così, che ci stanno, proprio quelle parti che magari non sono importanti per l'inchiesta, non chiariscono nulla al cittadino, ma sono succose, sono degli sms, come dire, delle smancerie che fanno il titolo. Ecco, allora parlare di queste cose è un compito estremamente delicato, lo è anche per chi parla di finanza, per chi parla di qualunque cosa, di cronache, eccetera. Questo è particolarmente delicato e ci sono dei codici che secondo me vanno rispettati e che secondo me giustamente si devono basare sul rapporto di fiducia tra le persone. Non c'è nulla di codificato e questo vale per il rapporto con la polizia, vale per il rapporto con i carabinieri, con i magistrati, eccetera. Poi ci sono i magistrati anche che utilizzano la stampa, o meglio i media, in una maniera secondo me distorta, abnorme, e quella più abnorme di tutti non è tanto quella di farsi pubblicità, c'è anche questo, ma non è questo. La cosa più abnorme è quando lui fa un'inchiesta anche importante, arriva a una conclusione che come dire, che non riesce a trovare tutte le prove che gli servono, dovrebbe a questo punto chiedere l'archiviazione o comunque fermarsi, lui magari lo fa. Qualcun altro invece rifila qualche carta a qualche giornale, per cui il processo si ferma lo stesso, ma intanto la persona implicata in quel processo ha la vita rovinata o qualcosa di questo genere. E questo succede. Sì. Sì. Non so se ho risposto, ma... Sì. È l'avvocato Lonare. Prego, avvocato Lonare. Allora, ho sentito prima dall'autore, dall'autore dire che alcuni colleghi a Padova hanno, diciamo, criticato un tono eccessivamente elogiativo del suo libro. Io il libro ancora non l'ho letto. Per l'ultimo capitolo devo dire che se parla bene del dottor Tafusser, anch'io qualche volta ne ho parlato bene. Non e altre sempre, volte non bene. Anch'io qualche volta ne ho parlato bene. Però voglio fare una considerazione. Il giudice non è certamente infallibile, il giudice sbaglia, il giudice commette degli errori, però vorrei ripetere quello che ho avuto occasione di dire un anno fa circa in una tavola rotonda sulla responsabilità del giudice. È triste, ma effettivamente i magistrati in questo paese e i magistrati del pubblico ministero in questo paese sono stati molte volte una specie di baluardo contro l'illegalità. Io da avvocato, che spesso ho criticato i magistrati anche nel periodo di Tangentopoli in cui si faceva un uso forse eccessivo della carcerazione preventiva, perché naturalmente il rispetto delle regole di libertà è un principio fondamentale e va rispettato da tutti, compresi i magistrati. Però devo dire, è triste dover dire che i magistrati in questo paese sono stati spesso il baluardo, una specie di ultima trincea contro una illegalità che è dilagante, che è enorme, che pervade, che inquina tutto il paese. Ricordo qui a noi bolzanini che se non ci fossero stati i magistrati del pubblico ministero, Fiorani, amministratore della Banca Popolare di Lodi, probabilmente si sarebbe pappato la cassa di risparmio di Bolzano, in cui era riuscito a mettere in piede e in cui stava cercando di allargare il suo potere. Molte volte in questi anni indubbiamente dobbiamo riconoscere che senza i magistrati del pubblico ministero ci sarebbero state delle situazioni, lasciamo stare i nostri, diciamo così, eroi nazionali che sono Falcone e Borsellino. Io dico i magistrati del pubblico ministero che hanno fatto il loro lavoro anche spesso oscuro, quotidiano, che quotidianamente combattono contro l'illegalità, devo dire che senza di loro purtroppo molte volte i furbetti del quartierino cosiddetti avrebbero avuto ragione. Quindi diciamo una cosa, se parla bene dei magistrati, io devo dire da avvocato che spesso li ho criticati, ma in questo momento del nostro paese in cui c'è un attacco continuo, insistente, quotidiano alla giustizia, che viene veramente delegittimata, perché quando l'attacco alla giustizia viene fatto anche da livelli molto elevati, chiaramente il cittadino, quando si vede che non si riconoscono le sentenze, il normale cittadino è portato a dire ma perché deve valere la mia se non valgono le sentenze di condanna per persone molto più, diciamo così, altolocate. Quindi è triste dire che c'è questa funzione di baluardo, è triste anche dire che ci sia bisogno di questa funzione. Quindi tutto sommato, per una volta tanto, ho parlato bene dei giudici e perdoniamo l'autore se ha fatto questo tipo di lavoro, di perdonarlo. Vabbè. C'è da dire che l'avvocato Lona era in pensione, cioè a quello che dice l'avvocato. E poi aggiungo un'ultima cosa. Una cosa non ho capito. Ha premesso che io sono uno di quelli che ha ottenuto una pesante sentenza di Fiorani. Non so, scusa un attimo Giorgio, parla il procuratore generale. Quindi... Mi fa molto piacere dire, no, anzi per... la più pesante che abbiamo ottenuto, perché ero procuratore della Repubblica Lodi. Ma non riesco a capire perché continua a dire, è triste constatare che noi siamo un baluardo della giustizia contro l'illegalità. Ecco, questo io è un glielo posso spiegare, non ho capito bene. Perché in un paese ben funzionante non dovrebbe esserci la corruzione, che è il fattore costitutivo della vita nazionale. In un paese ben funzionante, in altri paesi vediamo per esempio che chi è semplicemente toccato da un avviso di garanzia si dimette. Noi viviamo in un paese in cui le regole non si rispettano più, allora è triste dover dire che non c'è una autolimitazione. Ecco, questo mi rende triste. Vorrei vivere in un paese in cui non c'è bisogno sempre dell'intervento di supplenza del pubblico, perché voi fate un intervento di supplenza, supplite a un potere, a una classe politica che non sa far rispettare le regole e che non sa gestire il paese. E meno male che ci siamo. Posso però dire una cosa, ho una critica da fare all'autore. Grazie. Quando ha detto che gli avvocati sono quelli che fanno tutte le alchimie finanziarie, eccetera. Beh, no, sono soprattutto, posso difendere anche i commercialisti. Faccio una piccola difesa, se posso. Poi se ce n'è qualcuno in sala, va bene. Ci siamo anche noi, ma direi che forse siamo un po' un numero minore. Dica. Il suo giudice aveva la domanda per lei. Ah sì. Proprio per via riforma della giustizia, no? Se ne parla per 20 anni, 30 anni, cioè. Lei stesso si è espresso qualche volta in modo, diciamo, politico, se non anche rubido, verso la magistratura. Non è che, ovviamente, la magistratura è una casta, come abbiamo le caste dei giornalisti, le caste dei finanzieri, eccetera. Ma non è che questa non volontà, cioè questa, diciamo, resistenza alla riforma della giustizia, che ci deve essere secondo me, perché non è possibile che ci siano 8, 9, 10 milioni di processi in corso che durano 10 anni, 12 anni, 15 anni, civili o penali che siano, e quindi ci deve essere una riforma della giustizia. Non parlo neanche della magistratura, proprio parlo della giustizia. Non è che questo è dato dal fatto che ci sia una certa comunanza, una vicinanza tra politica e magistratura e viceversa? Perché non allora, c'è questa riforma che allora, cioè la comunanza tra magistratura e politica, cioè gliela posso smentire, è abbastanza inesistente. Ma abbiamo magistrati che poi dopo sono diventati politici. Sì, vabbè, ma abbiamo avvocati che diventano politici, questo, ma non vuol dire che questa ci sia una vicinanza. Uno sceglie poi di fare un'altra strada. Io questo non l'ho mai trovato scandaloso. Il problema è che se poi ritorna a fare il magistrato, questo è il problema. Non è uno che. Cioè, questa dovrebbe essere una strada unilaterale, no? Vabbè. Però comunque rispetto a 10.000 magistrati sono sempre una, sono due, tre, quattro, e poi succede in tutte e due da tutte e due le parti, non solo i comunisti ma anche gli altri, no? Quindi, ma questo non è, secondo me non è il problema. Quando lei dice 8, 9, 10 milioni di processi, io, è lì il problema. Noi non sappiamo se sono 8, io credo che nessuno sa quanti milioni di processi ci sono, perché è lì inizia tutta la problematica. Noi siamo l'amministrazione, pubblica amministrazione più arretrata che ci sia. Perché io non credo che questi 8 milioni, 8, 9 milioni che lei spara come numero, ma se vengono al ministero sono altrettanto sparati, perché nessuno sa, perché noi tutti nei nostri uffici, dalle Alpi alle Piramidi, tendenzialmente abbiamo i nostri numeri sono un po' creati, un po' a casaccio, cioè l'ufficio statistica è un ufficio che esiste al ministero che fa statistica su numeri improbabili, perché dagli uffici vengono numeri improbabili. Che ci sia una necessità della riforma di giustizia, ma è pacifico, cioè, ma su questo non ci piove, ma ci vuole la rivoluzione della giustizia, non la riforma della giustizia. Ma io adesso che sto all'AIA ogni tanto, quando nei fine settimana lunghi e bui sono lì che rifletto camminando lungo la spiaggia di Scheveningen, e ho davanti a me questa corte in cui adesso lavoro, che è una cosa straordinariamente, un potenziale straordinario, no? per la giustizia, la pace nel mondo, e io so dall'interno quanto male funziona, cioè un potenziale che è espresso al 10%, al 20% del suo potenziale. È un po' come il mio smartphone, che io lo utilizzo al 20% perché non so cosa, cioè, oltre che telefonare, fare due o tre altre cose, non ci so fare, no? un po' la stessa cosa. Allora, camminando appunto per le spiagge di Sevenning, rifletto perché questo è, il tutto funziona così male. E allora la risposta che mi sono dato è una risposta abbastanza banale. Io non conosco uno Stato che vuole che la sua giustizia funzioni. Ovvero, io conosco solo Stati che vogliono che la giustizia funzioni fino a un certo livello. Finché noi facciamo gli spazzini delle strade e quindi facciamo tutto quell'attività giudiziaria che crea consenso e sicurezza, no? Tolgo i negri, tanto per usare i drogati, eccetera, dalle strade, c'è il consenso e tutti lo vogliono, da tutti i politici, dalla sinistra alla destra, dalla destra alla sinistra. Però per fare questo, il funzionamento della giustizia, non ci vuole un sofisticato funzionamento della giustizia, no? Quando si vuole invece far funzionare la giustizia come la intendo io, come controllo di legalità, ovviamente non lo vuole nessuno, perché vuol dire alzare il tiro. Alzare il tiro vuol dire andare a colpire anche dove magari nessuno, non si vuole che si colpisca. E questo succede in ogni paese. Voglio dire, in Germania, tanto per fare un esempio, c'è il controllo sul pubblico ministero da parte del ministro della giustizia, ma non il ministro della giustizia della Germania, ma di ogni singolo Land c'è un ministro della giustizia, e il pubblico ministero deve riferire al ministro o al ministero le cose critiche che ha. E allora è chiaro che è già di per sé bloccato sin dall'inizio. In Austria, bisogna andare in posti lontani, in Austria il ministro ha un controllo sul lavoro del pubblico ministero, gli può dare delle direttive, tu non devi fare questa indagine, punto. In Italia tutto questo non c'è, perché noi siamo autonomi, abbiamo lo stesso status dei giudici, sono filo dell'autonomia, no? Mentre gli altri non sono autonomi, noi siamo autonomi. E allora da noi cosa ci vuole? Ci vuole che qualcuno vada in Parlamento a cambiarci le leggi, perché questo è l'unico modo per bloccarci. Ma certo è che nessuno vuole il funzionamento della giustizia, almeno così come lo intendiamo tutti noi, di controllo della legalità, di servizio al cittadino, cioè di qualcosa che funziona davvero. E allora, sempre ritornando al discorso di prima, perché la Corte Penale Internazionale funziona così male? Perché è logico, perché se la Corte Penale Internazionale è costituita dalla somma degli stati, ovviamente dalla somma degli stati non è che può uscire qualcosa, non è che la somma degli stati adesso vogliono qualcosa che funzioni perfettamente per avere poi qualcuno che incrimini il capo di stato di qua o di là. Quindi io sono abbastanza pessimista in genere sulla possibilità che arriviamo a una riforma della giustizia, tant'è che io sono quasi 30 anni che sono in questo mestiere, ma io di cose intelligenti sotto il capitolo riforma della giustizia io non li ho mai sentiti, perché la riforma della giustizia in questo paese è la riforma dei magistrati, del sistema dei magistrati, il sistema di controllo che i magistrati potrebbero sapere. E io non sono uno che difende i magistrati di principio, io sono uno che è estremamente critico contro un certo tipo di magistrato, che peraltro è anche relativamente diffuso, no? Io sono pessimista, purtroppo, anche se scusate, io ricordo che quando si fece questa cosa di cui ha parlato prima Mancini e di cui poi ha scritto qui a Bolzano, io ricordo un trafiletto che lui ha scritto sul Sole 24 Ore. Adesso io non voglio dire perché l'ho fatto io, però io un trafiletto che lui ha scritto sul Sole 24 Ore, che io peraltro mi sono ritagliato, non eravamo ancora amici ma ci conoscevamo, e l'ho incorniciato e ce l'ho su all'aia. Cioè, voglio dire, qualcuno che fa qualcosa di intelligente, se mai lo è quello che ho fatto io, ma forse sì. Cioè, uno deve, in qualsiasi azienda privata, dice: scusa, cerchiamo di valorizzare questa cosa, no? Invece io sono all'aia. quindi la sua promozione è più che altro una rimozione. No, ma non, io questo non lo dico, perché io sarei uno che io non voglio sputare nel piatto in cui mangio, perché io sto benissimo, però non, io non sono, cioè se io potessi scegliere, se io avessi potuto scegliere all'epoca, io non avrei scelto questa strada, ma un'altra. Però nessuno mi ha chiesto nulla, questo è il punto. Posso aggiungere una cosa brevissima su questo tema, perché lei nel fare la domanda, diciamo, ha elencato alcune questioni che sono proprio il frutto classico dell'operazione dei media. Quello che succede nei palazzi di giustizia, noi lo sappiamo, a parte chi ci lavora, ma lo sappiamo solo attraverso i media. E quando dico media, dico televisione, perché in Italia ormai le ultime statistiche, c'era l'altro giorno su Repubblica un'inchiesta fatta, presentata da Ilvo Diamanti, ora non ricordo chi l'avesse fatta, comunque una, in cui ormai i lettori dei giornali sono ridotti a un paio di milioni in Italia, tutti guardano la televisione, dunque l'opinione e le informazioni che si hanno non sono ancora di internet, perché molti non usano internet, ma tutti hanno in casa la televisione, tutti hanno in casa la radio. Perché dico questo? Perché tutto quello che si sa e che si dice sulla giustizia, in particolare sulla giustizia, è il frutto dell'opinione che le persone si formano ascoltando la televisione. Quello che accade nei palazzi di giustizia non è le buche nelle strade, che uno le vede, e se ci sono la volta dopo il sindaco non lo vota più. Quello che uno sa della giustizia è quello che gli raccontano della giustizia. Allora, se siamo un paese in cui da 20 anni si spaccia per riforma della giustizia, riformare una roba vorrebbe dire fare delle cose per farla funzionare meglio. Qui, in una inversione di termini, si è parlato per 20 anni di riforma della giustizia, assolutamente nel tentativo di non farla funzionare, questo senza se e senza ma, perché dagli accorciamenti delle prescrizioni alle procedure complicate, io mi ricordo quando fecero una legge, saranno stati una decina d'anni fa, in cui il Parlamento italiano votò una legge, correggetemi se sbaglio questa cosa, ma è una roba simile, per cui nelle rogatorie, che già sono un casino, le rogatorie internazionali, bisogna passare dai ministeri eccetera eccetera, non valevano più le fotocopie, ma o le banche, i ministeri mandavano gli originali, se no non valevano quelle carte. Adesso ditemi se questa non è una roba fatta per non fare andare avanti i processi. Togliere il personale giudiziario dei palazzi di giustizia vuol dire bloccare i processi. Perché ci sono dei palazzi di giustizia in cui debbono finire tutto alle 2 del pomeriggio, perché non c'è più gente che fa le cose. Nel capitolo su San Marino, dove questo PM ha trovato 2 milioni di assegni, 2 milioni di assegni in banche italiane, sarà Sandir, con delle intestate delle fiduciarie anonime sanmarinesi, con delle girate in cinese, in russo, caratteri cirillici eccetera. Un lavoro pazzesco, hanno dovuto far venire delle altre forze dell'ordine, hanno dovuto formare la polizia perché riuscisse a fare queste cose. Dopo un anno hanno ottenuto dal ministero 8 scanner per scannerizzare questi maledetti assegni, perché sono delle stanze piene di assegni, in modo che, come le impronte digitali, cercavano di trovare delle girate simili, no? Passandole al computer, come si vede nei film. Ma c'erano solo 6 di questi scanner, sono rimasti fermi perché c'erano solo 2 persone che lo facevano. Allora, quando mi si parla che la giustizia italiana è inquinata, non funziona, è di parte, perché ci sono 2 magistrati che si fanno eleggere in Parlamento, se ci riescono, perché neanche ci riescono, cioè si dice una cosa che ci ha raccontato la propaganda, perché è una cosa che non c'entra nulla con il fatto che ci siano 5 milioni di processi arretrati, e lì si butta dentro tutto, le intercettazioni, la privacy. 4 milioni di questi sono processi civili, che col penale non c'entrano niente, sono le cose che interessano a noi, sono quelle sciocchezze che, anziché essere delle leggi, lo diceva prima l'avvocato, dello Stato, che vengono, come dire, risolte delle questioni con degli arbitrati dal punto di vista amministrativo eccetera, diventano dei processi penali. Cioè, un'assicurazione con uno un incidente dovrebbe pagare, se uno paga l'assicurazione, fa l'incidente e pagano, bisogna andare in tribunale, bisogna fare una causa. Dopo ci sono 5 milioni di processi arretrati, e grazie al cavolo. Meno male ti sei. Eh? No. Come dico? No, meno male ti sei un po' trattenuto. Ah, ah, su, grazie. Dici. Sì, sì. C'è una domanda qui dietro. Sì, chiedo scusa. Questo mondo di magistratura questa sera, io sono la perfetta ignorante, però a me ha fatto venire un altro pensiero. Prima di tutto, ma questa è la prima domanda, ma sono più i delinquenti di soldi o sono quelli ai quali vi riferivate prima e che mi hanno fatto veramente meditare? E credo che là è triste per voi, qua mi fate quasi pena quando incontrate quelle delinquenze umane, quella signora che non le nomino neanche più. Io ho pensato tante volte nella mia vita, ma saranno di più gli imbroglioni di soldi che insomma metteteli dentro e o gli imbroglioni quegli altri che non sono imbroglioni, sono qualcos'altro, ma adesso si diffondono sempre di più anche quelli, e qua mi fate quasi pena quando incontrate quei guai che forse... Non lo so, no, nel senso che comunque, signore, è più difficile beccare quelli dei soldi, eh. Cioè, poi io non lo so quanti siano, quanti non siano, però tu forse lo sai. No, non lo so. Mi spiace, una domanda non, che resta senza risposta. Non lo so, non lo so. C'è un signore. Sì. Sei tu che devi stare attento a dire, parli tu, parla tu. Che tipo di impatto ha in generale lo sviluppo tecnologico, non soltanto quello digitale, ma anche penso all'analisi del DNA su, come dire, sulla carriera del magistrato e sulla, anche dato che il tema è stato accennato, sulla una eventuale riforma della giustizia che passi anche attraverso canali non prettamente giuridici ma di altra natura? Ma io avrei capito la domanda se non ci fosse stato sulla carriera del magistrato. No. Cioè, il test del DNA, la carriera del magistrato. Forse non l'ha capito. Una cosa brevissima, perché poi può dirsi mai qualcosa di più che uno. Allora, queste cose che lei ha citato sono delle cose molto importanti per le indagini. Ammesso che ci fossero le risorse per usare queste cose, ci fosse il personale che è in grado di usarle. E nel dire questo dico un altro concetto che devo dire che dal libro esce in maniera abbastanza chiara. Un pubblico ministero senza la sua squadra che c'è intorno, parlo quindi delle indagini, no? Di chi sa usare queste cose, di chi le utilizza in una maniera efficace, di chi non butta via i soldi utilizzandole, eccetera. Quello è un magistrato che non solo è bravo, è sbirro, sa fare il suo lavoro, eccetera, ma è anche uno che sa, come dire, gestire e organizzare il suo lavoro. Molte di queste cose qua, che potrebbero essere assolutamente utilizzabili, spesso non lo sono, perché purtroppo, detto senza nessun tipo di offesa, ma per esempio l'ultimo concorso che hanno fatto del personale dei tribunali è del 99. Cioè non c'è un nativo digitale in tribunale, ci sono delle persone che sono magari appassionate di queste cose, che lo sanno usare, eccetera, però lavorare su queste tecnicalità avendo 50, 55 anni, eccetera, eccetera, non è così facile. In più ci vuole una persona, il PM, che sappia far girare tutto questo. Quindi le robe ci sarebbero, però credo che non sia assolutamente facile, ecco. Ma guarda, io posso raccontare una testimonianza diretta, cioè tutto quello che lei ha detto è importantissimo e diventa sempre più importante, no? Però bisogna anche saperci poi fare. E giustamente, come dice Leonello, noi non abbiamo gente giovane che arriva con questo know-how, noi abbiamo gente relativamente anziana che parte da tutto un altro know-how, ma che si è fatta negli anni per passione, per eccetera. Uno di questi era un mio vecchio autista, peraltro presente qui, che sì. Qual è? Lui, Ugo. Io non conosco. No, alza la Ugo. Eccolo, Ugo. Cioè, questo era il mio no, era giovane quando era autista, era giovane. All'epoca non ero vecchio. No. Comunque aggiunge vecchio ci sarai te. Sì, no, esatto. quando io noi giravamo l'Italia per carcere eccetera, e lui normalmente l'autista, questo vedevo fare l'autista normalmente rimane seduto in macchina che fa il cruciverba aspettando che il pubblico ministero avesse finito il suo lavoro in carcere, quello che... Invece Ugo voleva sempre venire con me perché evidentemente era interessato e gli piaceva, cioè era più stimolato a fare qualcosa piuttosto che stare seduto in macchina a fumare, allora fumava, e a fare i cruciverba. E allora all'inizio era lì che batteva a macchina il verbale, e poi c'erano i primi computer. Oggi, ancora oggi, ma io ancora quando ero procuratore lui è diventato il responsabile di tutta l'attività di indagini tecniche della Procura di Bolzano. Quindi, però è uno che lo ha fatto perché gli piace fare, perché è uno che si propone, che fa, cioè, non perché uno che esce da un concorso fatto dal ministero per cui hanno selezionato delle persone che sappiano fare certe cose e poi le hanno destinate come dovrebbe essere, no? È uno perché cioè, questo è il tipico in Italia, che tutto succede perché così a macchie di leopardo, perché ci sono delle eccellenze, delle persone che si propongono, che fanno qualcosa, ma non c'è un sistema in Italia, non c'è un sistema, questo è il punto. Siamo tutti cani sciolti, ci sono solo quelli che sono solo cani e quelli che sono dei cani buoni, però non c'è sistema, ecco. Adesso vi dico ancora perché non c'è sistema. Io ogni tanto divento, io sono da 4 anni e mezzo, oltre 4 anni e mezzo ormai, che sono alla Corte Penale, no? Mandato, eletto, allora vi dico che comunque è un posto che anche sotto un filo strategico per un paese come l'Italia, che comunque paga all'anno 10-11 milioni di euro per farlo funzionare. Non tutti a te. Non tutti a me, no? Per farlo, non per farmi funzionare, ma farlo funzionare. Però dovete sapere che nessuno, nel Ministero degli Interni, nel Ministero della Giustizia, nel Ministero degli Esteri, Consiglio Superiore, nessuno mi ha chiesto fino adesso cosa sto facendo. A proposito del sistema Italia, cioè ti mandano fuori, dicono sì, bene, il prestigio eccetera per l'Italia, ma poi non gliene frega niente a nessuno, perché tutti sono impegnati a fare delle altre cose. Cosa sta facendo? Io non ho più nessun legame col procuratore generale, non mi deve chiedere un tubo. No, però è drammatico, è così, no? Rimane un mistero. Ma c'è stata addirittura un'interrogazione al Consiglio Provinciale. Su cosa sto facendo? Sì. E non ce l'avete. Cosa sto facendo? Lavorando. Io sono venuta già alla sua conferenza, vede? No, ho sentito molto. Stamattina in macchina stava arrestando in inglese qualcuno, non so, dalla mia macchina, ovviamente, perché io guidavo e mi dicevo sbrigati, che arriviamo tardi. Io ho detto, se c'è il rischio dobbiamo continuare ad andare ad Amsterdam. Sì, esatto. Guarda, andiamo su, proseguiamo di lì. Bene, ci sono. Ecco. Lei è giornalista di lunga carriera, come ho capito. È bravo anche. Molto bravo. Questo non lo so. Non leggerò. No, sì, dice lui. Si fidi. Però mi sembra che abbia un po' visto un po' attraverso le cose e non per niente. Riesce anche a scrivere, anche con l'acclamazione dei suoi diretti interessati, questo è un buon segno. Però la mia domanda è, del comune cittadino, uno dei pochi probabilmente che si indignano di questo malaffare, eccetera, eccetera. Lei ha visto una parte, però vede anche l'altra parte, vede tutte e due le parti. Lei che idea si è fatta di noi italiani? Perché lei vede i magistrati, però vede anche quelli fuori a cui sono indirizzate le sue informazioni, e vede anche come vengono recepite. Certo. Secondo me non vengono recepite tanto bene, non per niente non ci sono conseguenze, abbiamo appena sentito. Lei che idea si è fatta un po' di questo ambaradan? Cioè di noi cittadini, no, noi come sistema Italia, come cittadini che accettano tutti supinamente o sono anche concolpevoli di tutta questa faccenda. Però adesso non voglio parlare di lei che ha chiesto. No, io guardi, non mi permetto di dare un giudizio sugli italiani, perché intanto sono italiano anch'io. Io dico, mi rifarei a quello che diceva un po' prima, appunto, l'avvocato. Qui il problema, stamattina raccontavo proprio in macchina a Cuno una cosa che forse risponde alla sua domanda. Lui non mi ascoltava perché stava arrestando delle persone, quindi. Però qui te lo ripeto, 30 minuti, te lo ricordi? Cosa? Appunto, cioè, parlavo da solo per mezz'ora. Praticamente cosa succede? Che in America, quando, come da noi, a scuola danno dei compiti in classe, dicono... mi ricordo. Bravo. Allora non lo racconto. No, ma lo stesso. In 2 ore bisogna fare questo compito, e ok. Ma il figlio di un amico che ha studiato là, mi raccontava questo mio amico, era rimasto sconcertato dal fatto che quando danno un compito a casa dicono questo esercizio è da fare in 30 minuti, e ragazzi lo fanno in 30 minuti, non c'è bisogno di uno che lo controlla, che gli dica basta, e quando, se non ce la fanno, tornano a scuola e dicono professore, non sono riuscito a farlo in 30 minuti. Questo qui è un tipo di mentalità, così come questo ragazzo che per una sua si era ammalato quando doveva fare l'esame finale della so, noi diremo di maturità, diciamo, e il professore gli ha detto vabbè, non c'è problema, tra 2 settimane rifai lo stesso esame che hanno fatto i tuoi compagni, lo fai da solo, eccetera. E lui chiaramente, italiano mica per niente, chiama i suoi compagni e dice ma allora questi esercizi, e i ragazzi, a me, i suoi compagni di scuola, dicono guarda, se hai studiato non c'è problema. Non è che gli ha detto le soluzioni. Allora, perché dico questo esempio? Perché secondo me questo da noi può valere per la divisione dei rifiuti in casa, per la cintura di sicurezza in macchina. Cioè, noi abbiamo un'idea delle regole che è come se non ci appartenesse, e invece o capiamo che il rispetto delle regole, certo, l'Italia è piena di regole, ovvero a volte leggi, a volte non leggi, ma comunque regole inutili e che servono solo a inceppare la vita delle persone, non a regolarla e a farla andare via meglio. Però o le regole noi cominciamo noi singolarmente, dai condomini, di cui le procure sono intasate dalle cause dei condomini, a rispettarle, o se no qui non succederà mai niente. Ecco perché una delle pochissime leggi che ha funzionato in Italia così è quella sul fumo. Cioè, qui se uno accende una sigaretta ci sono 10 persone che gli dicono guarda che non si può fumare. Su tutto il resto, dalle macchine in doppia fila, dico per dire, al fatto di saltare una fila per ricoverarsi, adesso poi voi qui ragazzi, diciamo la verità, siete messi bene a Bolzano, perché già basta andare, come dire, in Lombardia, se devi curarti è meglio che sei di Comunione e Liberazione, perché sennò sono cavoli amari, e se vai in campagna è meglio che c'hai conosci qualcuno dei giri loschi se vuoi lavorare, perché se no, ecco, allora i voti come vengono presi. Allora tutto questo però è qualcosa che si fa molto presto a dire, il politico, l'amministratore, il governatore, il primario, eccetera, ma io dico che comincia assolutamente da noi, e noi avremmo già tutti gli elementi per aver capito questa lezione, ma siamo de goccio, continuiamo a fare le stesse cavolate. Uno si chiede come mai certe regioni d'Italia, che sono, non so chi di voi sia mai stato in Calabria, non dico in vacanza 2 settimane, magari per lavoro eccetera, sono veramente delle regioni ma distrutte, esauste, cacchio, continuano a votare le stesse persone, e il voto però, voglio dire, lo dà ciascun cittadino. Ecco, non so se ho risposto, ma secondo me la risposta è questa, quindi o ci diamo una mossa ciascuno di noi, o se no non succede niente. What do you think about? Yeah, I'm saying. Do you agree? Yeah, I agree. Avete dei consigli per chi vorrebbe diventare magistrato? Studiare. Studiare e diventarlo, perché è il mestiere più bello che ci sia. In assoluto il mestiere più bello che ci sia. E perché è l'onere della toga, come si dice lui, però per me è l'onore della toga. È veramente una. Guardate, è un mestiere straordinario. Certo, bisogna studiare molto, no, devo dire che scusa, studiare. Prego. E essere entusiasti è rimasto uno dei concorsi credo più difficili e selettivi, ma in maniera veramente seria, dove non ci sono né santi né nient'altro, per, quindi è veramente durissima. Però ecco, poi no, ma se ce io di poi dico, se ce l'ho fatta io, ce lo fanno anche gli altri, questo, cioè, è adesso, sì, questo è vero. Poi ci sono tutta, ecco, lui è d'accordo. Sì, no, stavo per dirlo io, ma sì, ma sì. No, no, secondo me è il più bel mestiere del mondo, o no? Yes. Cerchiamo i magistrati, Dio buono, Guido, dici è vero o no? Che è il più bel mestiere del mondo? Io sono d'accordo. Senso, chiudiamo qua. Chiudiamo qua, eh? Sì. Che vogliamo fare? Grazie.